francese, Tolk Ignazio, Maradona, Toro bravo, fai il bravo, non entrare nella zona, Fellini, Scorsese, Tolk Ignazio, Maradona, Toro bravo, fai il bravo, non entrare nella zona. Fellini, Scorsese, faccio corse, faccio spese, wanna beef non ti conviene, mangio beef cinta senese, The Great Beauty manda a casa sti rifiuti, sono testa annacquate come cocktail bevuti. Talking Heads, Maradona, la mia gente te le suona, Dark Polo Gang infetta la tua zona. Quarantena, rapper da quarantena, vengo dal nulla come Sisto, Dark Sex Pistols. Fellini, Scorsese, Talking Heads, Maradona, Toro bravo, fai il bravo, non entrare nella zona. Fellini, Scorsese, Talking Heads, Maradona, Toro bravo, fai il bravo, non entrare nella zona. Fai il bravo, non entrare nella mia zona, mi becchi con i miei fratelli in parrocchia, acqua santa, non la tocco perché mi scotta, non parlo perché parlare mi scoccia. Le gazzelle che mi fermano, non so proprio quello che vogliono, faccio buon viso a cattivo gioco, cresciuto per strada su strade di fuoco, fra le tasche vuote dentro sono vuoto. Mia madre lo diceva sempre, chi guarda per terra nasconde l'infamia, l'infamia si sgama, l'infamia è per sempre. Se tavolo basso modalità aereo, sono un pollice sopra le nuvole, frate scegli rossa blu Morpheus, ti sei fatto un bel viaggio Gulliver. Pensavi di metterti con D'Arcolo, pensi o non pensi pollo, penso che resti solo.